Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci pronti dal Groove Master Studio per il soundcheck di Radio 24, la prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera a Silvia Barba. Buonasera a te, buonasera a tutti. Io lo so che ti stai preparando e anch'io mi sto preparando psicologicamente ad affrontare neanche la nottata, perché praticamente in Italia i Grammy Award saranno in onda martedì mattina, credo intorno alle 5 del mattino qui in Italia, perché ci sarà finalmente, lo stavamo attendendo ormai da diversi mesi, lo spettacolo che consacrerà gli Oscar della musica per quest'anno lì allo Staples Center di Los Angeles. Beh, molto più importante per noi appunto il Grammy Award che gli Oscar del cinema. Noi abbiamo ascoltato durante l'anno un sacco di produzioni e per le abbiamo noi appassionati anche programmate. Di musica, certo, per noi appassionati di musica è un momento importante, perché vedremo l'Academy Recording americana chi consacrerà nel gota, nell'Olimpo della grande musica per questa stagione. Ebbene sì, praticamente lunedì sera, sì, orario di Los Angeles, dovrebbero essere 8 p.m. Alle 8 di sera partirà in televisione questa grande diretta sui canali della CBS, che noi seguiremo in Italia attraverso E-Entertainment, quindi sì, su Sky col decoder si può vedere lo spettacolone in diretta da Los Angeles. E noi stavamo aspettando, perché ci sono molti artisti, come dicevamo, che noi abbiamo proposto qui al soundcheck, e ce ne sono alcuni per i quali siamo dei veri e propri fans e tifosi. Tipo Kendrick Lamar, che ha fatto incetta di nomination, con ben 11 nomination, secondo solo a Michael Jackson per un album solo, nel senso che gli artisti negli anni ne hanno ricevute tantissime, ma loro due solo per questo album ne hanno ricevute 11, per cui grande successo. Quindi per un solo album, nel caso di Kendrick Lamar, per questa produzione intitolata To Pimp a Butterfly. Sì. Intanto già tradurre To Pimp a Butterfly è abbastanza complicato per noi, perché certamente ci sono dei riferimenti sul sociale sui quali noi non vogliamo indagare in questo momento, però To Pimp a Butterfly, ecco, To Pimp è proprio un atteggiamento tipico del protettore. Esatto, no? Fare il protettore, fare ruffianeggiarsi, ecco, qualcuno. Ecco, quindi proteggere, ruffianeggiarsi, in questo caso una farfalla. Questo è il titolo dell'album di Kendrick Lamar, che, come dicevi, porta a casa 11 nominations, e fra quelle più importanti ci sono album dell'anno e anche miglior album rap, poi ci sta miglior duetto e via dicendo, insomma ne ha presi tanti. Io direi allora di iniziare il soundcheck di oggi accendendo i riflettori ancora una volta su To Pimp a Butterfly, ed esattamente su una composizione che compete con altri brani importanti per Song of the Year, quindi canzone dell'anno, Best Rap Performance e anche Best Rap Song. Il brano si intitola These Walls, Kendrick Lamar, con una bellissima collaborazione, e qui c'è anche il tuo amico Thundercat, sì, e poi Bilal e Anna Wise. Ascoltiamo. These Walls, Kendrick Lamar, da To Pimp a Butterfly, brano che potrebbe aggiudicarsi nella prossima consegna dei Grammy Awards, esattamente martedì mattina, in Italia saranno le 6 del mattino, in diretta dallo Staples Center di Los Angeles, uno di questi premi: Song of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song, migliore canzone dell'anno, migliore canzone rap, migliore performance rap. Brano prodotto con alcuni fra i migliori e quotati producer americani, ma anche l'album è stato realizzato con la collaborazione di grandissimi artisti e producer. Ogni brano ha un suo perché, e quindi per ogni brano Kendrick Lamar ha coinvolto i collaboratori adeguati. Album, come diceva Silvia, trasversale. Sì, perché ha messo d'accordo tutti, dai jazzisti a quelli che ascoltano il pop, perché con il duo con Taylor Swift, che tra l'altro ha ricevuto anche lei tantissime nomination per il suo album 1989, ma davvero l'R&B, l'hip hop, il rap, come dicevi tu. Quindi lui è un artista che li mette d'accordo un po' tutti, per cui se ne è appropriato giustamente nel suo album, chiamandoli tutti. È molto interessante, sì, questa cosa. Ha già avuto un grande successo di vendita, anche se poi non è un album pop, è un album tipicamente contemporary, hip hop e jazz, come dicevi tu. Ci sono vari elementi, però insomma, se sei un appassionato di country music o sei un appassionato di cantanti neomelodici, non potrai apprezzare un album come To Pimp a Butterfly. Allora, dicevamo, ci sono vari artisti coinvolti, dal bravissimo vocalist di nuova generazione Bilal al maestro del funk George Clinton, Ronald Alley, ma anche il tuo amico Thundercat, esatto, che citavamo prima. Sì. Lo dico il tuo amico perché l'hai conosciuto, so che qualche settimana fa ve la siete fatta insieme. Mia no, cara. Sono stata al suo concerto a Torino, sì. Che vuoi sapere? Che voglio sapere? Guarda, stai diventando rossa, non voglio sapere niente, va bene. Vorrei tornare invece a Kendrick Lamar con You Ain't Gotta Lie, che forse è insomma, è il mio brano preferito dell'album. Forse anche il mio. Bene, eccolo qui. Soundcheck, il suono della musica. E anche il nostro D'Angelo probabilmente rischia di venire premiato quest'anno per la produzione di Black Messiah, esattamente con questo brano intitolato Really Love. D'Angelo rischierebbe di prendere Record of the Year, registrazione dell'anno, che poi è un premio che viene assegnato non solo all'artista ma anche agli ingegneri del suono e alla produzione di questo piccolo grande capolavoro di D'Angelo dall'album Black Messiah, che tanto è piaciuto alla nostra Silvia. Tantissimo. È forse il mio album preferito dell'anno. Non so che tu non sei d'accordo. No, che non è vero che non sono d'accordo. Io pensa che io avevo ascoltato i brani di Black Messiah in anticipo di 2 anni rispetto alla pubblicazione, perché avevo visto il concerto di D'Angelo a Los Angeles e il brano Sugar Daddy, che forse è uno dei masterpiece della produzione, mi era rimasto in mente quel groove clamoroso. Quando poi ho scoperto, quando uscì il disco, che effettivamente era uno dei brani che lui già portava in giro dal vivo. E l'album mi è piaciuto tantissimo, però devo dire che rispetto a To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar, insomma, stiamo parlando di due pesi diversi. Su Kendrick Lamar c'è una produzione, un colossal ha realizzato. Un album epico. Invece questa cosa di D'Angelo si parlò tanto perché tornava dopo tanti anni, quasi 14 anni, a pubblicare qualcosa. Quindi se ne era parlato talmente tanto che mi sarei aspettato qualcosa di più. È come a scuola, no? Il ragazzo è intelligente ma non si applica. Secondo me ci sono 2 o 3 invece hit che ho apprezzato maggiormente rispetto al resto dell'album. Hai ragione, quello di Kendrick Lamar è un qualcosa di più importante rispetto alla produzione molto più complessa. Comunque anche D'Angelo merita il successo che sta ottenendo, ma credo che il più grande successo per lui sia il fatto che sta fisicamente bene, meglio di un tempo. Sta molto bene. Sta molto bene. A te piaceva con gli addominali, ma anche quei lardominali. Sì, che mi piace in sempre. Ti piace sempre. Vabbè, Record of the Year, Best R&B Album per D'Angelo, questo è quello che potrebbe rischiare di vincere questo campione del New Soul lunedì sera, orario di Los Angeles, alle 8 sui canali della CBS. E naturalmente hanno già venduto milioni di copie, ma rischiano di prendere anche loro una valanga di premi questi due campioni, Bruno Mars e Mark Ronson, per la produzione di Uptown Funk. In verità l'album è a nome di Mark Ronson, eccellente producer discografico, ma Bruno Mars ci ha messo del suo. Allora, invece di proporvi la versione originale di Uptown Funk, che praticamente ci esce dalle orecchie perché su tutte le radio l'abbiamo ascoltata per 40 volte al giorno per mesi, io vi vorrei far ascoltare questa versione che abbiamo già presentato qui al Soundcheck, realizzata da questa band un po' stile New Orleans, quindi una marching band però con base a New York, guidata da un signore che si chiama Sly Fifth Ave, e quindi Club Casa Chamber Orchestra, Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars in questa versione strumentale. Soundcheck. Il suono della musica. E alla prova del suono di Radio 24 tornano The Internet con la voce della leader Sid Kidd, ovvero Sid Bennett, con la partecipazione di Kate Ranada. Il brano era Girl, tratto da questo album che sta ottenendo grandi successi in tutto il mondo, intitolato Ego Death. E anche questa produzione ha preso una bella nomination per la categoria Best Urban Contemporary Album, nella quale ritroviamo anche la bellissima e bravissima Lian La Havas con Blood. E quindi l'Academy Recording ci farà capire martedì italiana alle 6 del mattino chi vincerà questa categoria. Spero comunque una di queste due band. Sì, io preferisco Lian La Havas. Lian La Havas è più vicina alla tua personalità. Sì, ha una vocalità che mi piace molto. Anche a me non dispiace per niente, anche fisicamente, lo ammetto. Vedi, io ho D'Angelo, tu c'hai le tue e donne. Io ho Lian La Havas. Senti, ma come funziona l'Academy Recording? Che cos'è? Allora, quest'anno sono 83 le categorie premiate dall'Academy Record, che è una, come dire, un'associazione di esperti del settore dell'industria statunitense americana. User, sì. Editori, sound engineer, è tutta un'associazione formata da tantissime persone, evidentemente, che suddivide le categorie in circa 30 generi musicali. Quindi abbiamo una gamma pazzesca di personaggi che possono avere questo tipo di visibilità in una manifestazione così importante. Certo, poi ci sono le categorie importanti come quelle che abbiamo annunciato: miglior album, migliore canzone, rap, via dicendo. Poi e anche ci sono... Best New Artist è molto considerato perché ti lancia nel mondo del... Certo, se vinci popolarità. Quello è fatta, non sei più the best new ma sei già uno accreditato. Direi di sì. Poi ci sono le sottocategorie, ovvero i premi che vanno, che ne so, al suono, l'ingegnere del suono, anche alle copertine degli album. Viene premiato proprio il lavoro che viene fatto non tanto sulla musica ma proprio sulla discografia. Esatto, proprio sulla produzione, che è un'industria in America evidentemente molto considerata, per cui su tutto quello che riguarda anche la produzione di un album, oltre che il lancio di artisti e delle belle canzoni, evidentemente. Insieme a Billboard e American Music Awards è il premio più importante, forse lo è il più importante. È certo, il premio più importante per la musica. Certamente vengono premiate anche delle categorie che in Europa, ma anche in Italia, non interessano, tipo gli artisti del country, oppure ci sono molte categorie che riguardano la musica da chiesa, che sia gospel, che sia musica da chiesa contemporanea, cristiana tradizionale. Ecco, di questi artisti poi noi non sappiamo quasi nulla. Esatto, però possiamo venire a conoscenza attraverso questa manifestazione annuale che, come dire, ci mostra quello che in America e che in Europa, insomma, viene ben considerato. E per quel che ci riguarda, noi abbiamo indovinato diversi artisti, per ora e per come? Le nomination, non so se vinceranno dei premi, anche nel reparto jazz e musica latina ci sono alcuni nomi che noi abbiamo presentato più volte qui al Soundcheck di Radio 24. Siamo sul pezzo, mia cara, sì. Silvia. Best Urban Contemporary Album, rischiano di vincere il premio The Internet, ma anche Lian La Havas, album nuovo, lo abbiamo detto, bellissimo, si intitola Blood, per questa ragazza inglese. Anche questa è una cosa da far notare, produzione inglese che vince poi un premio americano, e questo è importantissimo. Eccola qui, Green and Gold, il brano che abbiamo scelto per voi qui al Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24 con Silvia Barba e Gegé Telesforo. Abbiamo parlato dei Grammy Award, lo ripetiamo, e poi li abbandoniamo per oggi. Sì, no? Dobbiamo aspettare lunedì notte, ovvero martedì mattina per noi, per come dire, scoprire chi sono i vincitori. Questi sono i nostri vincitori. Sì, diciamo, quindi per ricordiamo il soltanto che ci sarà la consegna dei Grammy Award a Los Angeles, orario locale alle 8 di alle sera, 8. Sui canali della CBS, invece in Italia su Sky a partire dalle 6 del mattino di martedì. E quindi tocca tenersi la giornata libera perché poi saremo in coma. Io sono pronta. Allora, abbandoniamo i Grammy Awards e i loro protagonisti per dedicarci al nostro lavoro, ovvero promuovere nuova musica. come al solito, devo dire, mi hai portato un qualcosa di molto particolare questa sera. Sì, è il suono di una band, non so se poi è il nome della band o il nome del progetto. Fatto sta che è interessante questo Fun Slow Ride volume 1, produzione realizzata da International Collective of Music Travelers, che potremmo tradurre collettivo internazionale di viaggiatori della musica. Che bello! Degli Indiana Jones. È bello! Allora, sì, un progetto che vede la partecipazione di oltre una ventina di musicisti accreditati e dei vocalist eccezionali, tutti newyorkesi, e i primi che noi presentiamo sono Moses Patro e Joey Dragland, che danno vita con Fun Slow Ride a una versione, devo dire, molto intelligente, molto ben realizzata di I Shot the Sheriff di Bob Marley. Non è facile. Non è facile, però mi piace perché all'inizio, come potrete sentire, non si capisce subito che è I Shot the Sheriff. C'è una sorpresina. Sì, ci sono vari elementi per l'arrangiamento di questo brano. C'è, sembra, samba reggae, sì, qualcosa di latinoamericano, di cubano, poi c'è R&B, c'è soul, elementi di jazz, c'è un po' di tutto, ma d'altra parte questo è il suono contemporary che arriva da New York per Fun Slow Ride per la prima volta al Soundcheck I Shot the Sheriff. Soundcheck, il suono della musica. Straight Up, brano che troverete nel nuovo recentissimo album intitolato Free TC, a opera di un nuovo protagonista della scena hip hop californiana, un signore che come nome ha Tyrone William Griffin Jr. del 1985, e poi invece come nome d'arte ha un titolo, ovvero Ty Dolla Sign, scritto anche con il segno del dollaro. Esatto, nel senso la che S è un dollaro. Ty di Tyrone e poi Dolla di dollaro. Esatto. Questo tanto per far capire quante ne vuole guadagnare. E glielo auguro perché sono importanti. Fatto sta che questo signore ha già fatto delle cose discrete con musicisti di riferimento del genere, come Wiz Khalifa, per esempio, tanto per dirne uno. E la cosa che mi ha colpito molto di questo album non è Straight Up, il brano che abbiamo ascoltato, ma ce n'è un altro che vede la complicità di un altro campione del sole dell'R&B di oggi, che è Babyface. Beh, si è associato al grandissimo producer che per anni è stato corteggiato da tantissimi artisti, ricordiamo, non so, Madonna, Mary J. Blige, Tony Braxton, ne ha prodotte di cose Babyface, e ancora continua a fare bella musica, perché anche lui ultimamente ha pubblicato il nuovo album. Allora, Ty Dolla Sign chiede una mano a Babyface per realizzare un brano che poi ha un suono completamente diverso da tutto quello che si ascolta invece da questa produzione, perché questo brano è stato realizzato con due chitarre acustiche, una formidabile linea di basso e poi le voci, nel senso che per essere un brano contemporary R&B e hip hop e non avere la batteria, già ha i suoi punti di forza nella originalità della proposta. Beh, ma è originale anche lui, hai visto come si presenta? Perché stai... guarda, no, io oramai sto iniziando a conoscerti, Silvia. Quando mi parli di certi artisti e ti viene quell'occhietto, capisco che c'è qualcosa di più dell'interesse artistico. Peccato che in radio non si veda l'occhietto. Vabbè, però gli amici, soprattutto le amiche, potranno verificare di persona in internet anche le sembianze di questo formidabile personaggio chiamato Tyrone William Griffin, al secolo Ty Dolla Sign, che vi presentiamo con Solid qui al Soundcheck insieme a Babyface. Il brano mi fa impazzire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Can you hear me? Ma mi. Soundcheck, il suono della musica. E qui la presentazione potrebbe essere un po' complicata, perché infatti non so se presentare l'autore del brano, Quobs, oppure se presentare il producer, Tom Misch, oppure il vocalist coinvolto da Tom Misch, che è Zach Abel. Come faccio? Io parlerei di Zach Abel. Allora, Zach Abel, giovane artista, giovane vocalist inglese molto richiesto in questo momento, che viene convocato in studio di registrazione dal producer Tom Misch per rivisitare un successo di Quobs intitolato Cheating on Me. Sono stato bravo? Sei stato bravissimo. Molto chiaro, effettivamente le cose sono andate così e Zach Abel è proprio uno dei cantanti in questo momento in auge nella nuova scena R&B soul contemporaneo lì in Inghilterra. Beh, non è la prima volta che collabora con Tom Misch, perché è presente anche nel suo album Beat Tape 2 con Beautiful Escape. Ha una voce molto bella, lui è un autodidatta per quanto riguarda la chitarra e il pianoforte, ha solo 20 anni, ricordiamolo, quindi insomma giovanissimo, e tra i suoi mentori musicali non può che nominare Michael Jackson. Certamente. Come si fa a non nominarlo? Stevie Wonder ci sarà. Stevie Wonder, ecco. Bill Withers e The Cinematic Orchestra. Quindi. Ecco, e gran parte dei lavori di Zach Abel li troverete su Bandcamp e SoundCloud. Esatto. È una cosa che continuano a fare tutti gli artisti della nuova generazione. Quanti ce ne sono? Ce ne sono tantissimi e si autopromuovono in questo modo fino a che poi non producono finalmente il loro EP di 5-6 brani e poi lo trovate anche su iTunes. Sì, ed è una cosa che io vorrei consigliare anche ai giovani artisti italiani, perché io continuo a ricevere, quindi è una cosa che anche altri colleghi devono sbrogliare. Certamente. Ogni tanto, cioè, la cosa di rispondere ai giovani artisti e di dire che cosa fare, ti mandano questi brani, tu li ascolti e non sai che cosa consigliare, perché le case discografiche sono in crisi, le multinazionali spingono soltanto i nomi importanti e quindi le produzioni in priorità, le etichette indipendenti stanno facendo una grandissima fatica e quindi tocca pubblicarsele su internet, le canzoni, le proprie produzioni, e augurarsi che magari un personaggio importante le possa notare prima o poi per dare poi uno sviluppo più importante alla carriera. Beh, questo è l'unico modo e devo dire che è quello che per ora funziona meglio, perché hai un modo per promuovere la tua musica gratuitamente, però è anche un bel viatico per farti ascoltare. E infatti è proprio così che noi abbiamo conosciuto il talento di questo Anderson .Paak, e abbiamo anche conosciuto la sua storia incredibile. Che cos'è? Sudcoreano di origine, no? Sì, è orientale. Sì. Orientale da una parte, afroamericano dall'altra, quindi con un DNA importante. Questo Anderson .Paak, per lavorare in California, entrò in una piantagione di medical marijuana, perse il lavoro, con la famiglia si è ritrovato sotto i ponti. L'abbiamo già raccontata questa storia, ma sì. mi piace ogni volta anticipare la sua musica con la sua storia, perché insomma non è una storia banale. Poi alla fine riesce, con l'aiuto di Dr. Dre, a lavorare al suo terzo album, perché se lo prende in studio e tra un lavoro di collaborazione e un altro finisce per produrre il suo primo album, che si chiama Venice. Allora, Anderson come Venice Beach, esatto. No? Che è bellissima, sì. Ci sei mai stata? Non ancora. Ci devi andare, e c'è anche una bellissima accademia di canto dove io lavoro, che si chiama Venice Voice Academy. Allora vengo con te. Brava, la prossima volta. Anderson .Paak con Schoolboy, il brano è Am I Wrong? Sono sbagliato? Non credo, Anderson .Paak, vai avanti. Soundcheck, il suono della musica. Il tocco latino di Alex Cuba con la voce di Ania Marina in No Esperes Mas. Adesso mi devi dire, Silvia, in quante radio italiane hanno proposto questo brano? Nessuna, credo. Vuoi vedere che dopo la consegna dei Grammy Award inizieranno a scoprire il talento e l'arte di Alex Cuba? Beh, spero proprio di sì. Noi, tra l'altro, ha già vinto il Latin Grammy. Ah, vedi, ha vinto il Latin Grammy, Latin Cuba, con una produzione guidata poi dal mio amico Leo Sidran, e adesso si ritrova nella categoria di Best Latin Album ai Grammy Award. Formidabile. Già essere nominati comunque è una vittoria. È una grande cosa, anche perché gli altri pure sono tostissimi. Però noi tifiamo per Alex Cuba, al quale auguriamo grandissimo successo con questa ultima produzione intitolata Healer, e che noi naturalmente vi raccomandiamo. È proprio un bel disco, un disco che anticipa quasi la primavera e la prossima estate. Beh, allora da ascoltare attentamente. Allora, domani è anche la giornata di San Valentino, ecco. La festa degli innamorati. Noi siamo innamorati di musica e quindi per domani sera vorrei raccontare una bellissima storia d'amore, avendo ospite la vedova di Tony Scott, Cinzia Scott, vedova di questo meraviglioso musicista che per tanti anni ha vissuto in Italia. Gli ultimi 30 anni anni della sua vita li ha passati a Roma. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, di suonare con lui, ha svezzato un'intera generazione. Lui che era considerato il più innovativo fra i musicisti di jazz del periodo bebop, eccellente clarinettista ma anche bravo pianista, formidabile improvvisatore vocale. Bene, domani sera lo ricorderemo qui al Soundcheck con la sua compagna Cinzia Scott. Parleremo di lui e di questa incredibile storia d'amore. Non vedo l'ora. Allora, noi ci risentiamo domani, vi lasciamo con il sound di Omar, un campione dell'R&B inglese, famoso nel periodo dell'Easy Jazz, quindi fine anni 80, primi anni 90, lavorava con l'etichetta di Giles Peterson, la Talking Loud, insieme a Incognito e tutti gli altri. Oggi è praticamente un veterano del genere e noi ve lo presentiamo con questa ultima fatica intitolata Getaway. Omar al Soundcheck, vi salutiamo, ci risentiamo domani e quindi buona serata a tutti e buona musica da Giorgio Telesforo e Silvia Barba.